non sembrerà più un Natale, brontolò Joe, sdraiata sul tappeto dinanzi al caminetto. L'essere poveri è una disgrazia, disse Meg, guardando con un sospiro il suo vestito. Vecchio. Non è giusto che alcune ragazze debbano aver tanto ed altre nulla, soggiunse la piccola Amy, tirando su il nasino. Abbiamo però la nostra buona mamma ed il nostro papà e tante altre belle cose, disse Beth dal suo cantuccio. Le quattro faccine, illuminate dai bagliori del fuoco che scoppiettava nel caminetto, si rischiararono un momento a queste parole, ma si oscurarono di nuovo quando Joe ricordò con tristezza: papà non è con noi e chissà quando tornerà. Non disse forse mai, ma tutte lo aggiunsero silenziosamente, pensando al padre tanto lontano là, sul campo di battaglia. Tutte tacquero per qualche istante. Poi Meg ricominciò: sapete bene il motivo per cui la mamma ha proposto di non comprare regali per il Natale. Crede che non abbiamo diritto di spendere il nostro denaro in divertimenti quando i nostri cari, nell'esercito, soffrono tanto. E non credo che quel poco che possiamo dare riesca ad alleggerire le sofferenze dell'esercito. Un misero dollaro non potrà far granché. Sì, sì, sono d'accordo anch'io di non aspettarmi nulla, né dalla mamma né da voi altre, ma vorrei, con i miei pochi risparmi, comprarmi un Dines in tram. È tanto di quel tempo che lo desidero, disse Joe, che aveva una vera passione per la lettura. Io avevo pensato di comprarmi qualche spartito, disse Beth, con un sospiro tanto leggero che non fu udito da nessuno. Io voglio comprarmi una bella scatola di matite Faber, mi servono proprio, disse Amy risolutamente. Se avessimo ora un po' di quel denaro che papà ha perso quando eravamo piccole, quanto sarebbe bello, Joe? Come potremmo essere buone ed ubbidienti se non avessimo alcun pensiero, disse Meg, che si ricordava i bei tempi antichi. Ah, ora che mi ricordo, l'altro giorno, proprio tu, dicevi che ti ritenevi molto più fortunata dei ragazzi King, che nonostante tutti i loro denari litigavano e brontolavano da mattina a sera. È vero, Beth? E penso davvero e ancora che noi siamo assai più fortunate di loro. Certo, dobbiamo lavorare, ma ci divertiamo tra di noi e siamo un'allegra masnada, come direbbe Joe. Joe usa sempre termini così volgari, osservò Amy, gettando uno sguardo di rimprovero alla lunga figura sdraiata sul tappeto. Meg, in qualità di sorella maggiore, cominciò la sua ramanzina. Tu sei abbastanza grande ormai per smettere quei modi da maschiaccio e comportarti come si deve, Josephine. Non era tanto importante quando eri piccola, ma ora che sei così alta e che ti sei raccolta i capelli, dovresti ricordarti che sei una signorina e non un ragazzo. Non è vero niente. E se raccogliermi i capelli fa di me una signorina, beh, porterò la treccia fino a 20 anni, gridò Joe, strappandosi via la retina e lasciandosi cadere sulle spalle una folta chioma di capelli castani. Penso già con non poca preoccupazione che un giorno dovrò pure essere la signorina March. Dovrò portare sottane lunghe, darmi un'aria di modestia e compostezza, proprio come la mia cara sorella maggiore. È la cosa più insopportabile del mondo pensare d'essere donna, quando darei qualunque cosa per essere nata uomo. Ed ora che muoio dalla voglia di andare in guerra con papà, mi tocca star qui a far la calza come una vecchia di 100 anni. E Joe, in un impeto di rabbia, gettò per terra la calza che stava facendo, tanto che il gomitolo di lana andò a rotolare dall'altra parte della stanza. Ed ora ecco il gomitolo sparso sul tappeto, tutto nodi e grovigli, col gattino in mezzo che cerca di acchiapparsi la coda. Brutto, brutto micio! Gridò Alice acchiappando il gattino e dandogli un bacio per fargli capire di essere in collera. Poi, arrampicatasi di nuovo sulla poltrona, dopo aver preso con sé gatto e lana, cominciò a rifare il gomitolo, ma il lavoro procedeva lentamente perché nel frattempo chiacchierava un po' con il gattino e un po' tra sé. Sai, Kitty, io ero così arrabbiata scoppiata quando ho visto tutto il disastro che avevi combinato. Avevo quasi voglia di aprire la finestra per gettarti nella neve e l'avresti meritato. Sfacciata, che hai da dire? Non mi interrompere, essa continuò levando un dito. Sappi che ti riservo il castigo per mercoledì di quest'altra settimana. Immagina un po', se riservassero a me tutti i castighi per un dato giorno, supponendo che ciascun castigo debba consistere nel rimanere senza cena, allora, arrivato il terribile giorno, dovrei fare a meno di 50 cene in una volta sola. A dir la verità non mi importerebbe molto, sarei più contenta di rimanere senza 50 cene che di doverle mangiare tutte. Senti la neve contro i vetri della finestra. Che suono dolce, come se uno stesse baciando la finestra dal di fuori. Kitty, cara, facciamo finta. E qui vorrei sapervi raccontare almeno metà delle cose che soleva dire Alice quando cominciava un discorso con la sua formula preferita. Facciamo finta. E l'aveva avuto il giorno prima una lunghissima discussione con la sorella soltanto perché aveva cominciato. Facciamo finta d'essere re e regine. Sua sorella, alla quale piaceva essere sempre molto logica e composta, aveva risposto che non potevano perché erano soltanto in due. E Alice era stata alla fine costretta a dire: allora tu puoi essere una e io sarò tutti gli altri. Ma continuare vorrebbe dire divagare dal discorso di Alice al gatto. Facciamo finta che tu sia la regina rossa. Kitty, sai che penso? Che se tu stessi seduta e incrociassi le braccia saresti precisa come lei. Proviamo subito. Ma la cosa non riuscì, principalmente perché il gattino non volle piegar bene le braccia. Così, per punirlo, Alice lo tenne di fronte allo specchio perché guardasse quanto era goffo. E se non stai buona, aggiunse, ti butto nello specchio. Ti piacerebbe andare nello specchio? Ora, se stai attenta, Kitty, e non mi interrompi troppo, ti dirò tutta la mia idea intorno alla casa dello specchio. Prima di tutto, v'è la stanza che si vede attraverso lo specchio. È identica al salotto dove stiamo, però tutte le cose sono messe alla rovescia. Salendo su una sedia posso vederla tutta, tutta tranne la parte dietro il caminetto. Quanto mi piacerebbe vedere quella parte. Ti piacerebbe vivere nella casa dello specchio, Kitty? Chissà se ti darebbero il latte là dentro. Oh, Kitty, che bellezza se potessimo entrare nella casa dello specchio. Sono certa che ci sono tante belle cose. Ma facciamo finta di poterci entrare, Kitty. Facciamo finta che lo specchio sia morbido come un velo e che si possa attraversare. Adesso sta diventando come una specie di nebbia. E entrarci è la cosa più facile del mondo. Alice stava sulla mensola del caminetto mentre diceva così, sebbene non sapesse spiegarsi come fosse arrivata lassù, e il cristallo cominciava proprio a svanire come nebbia lucente l'istante dopo. Alice attraversava lo specchio. Ci sediamo? Ho detto ci sediamo, così facciamo una cosa. Siamo state coordinate fin dall'inizio, no? Abbiamo anche, credo, fatto i gradini con lo stesso piede. Buonasera a tutti, io sono Alessandra Tedesco, una delle giornaliste di Radio 24 che organizza appunto questi incontri qui al Piccolo Teatro di Milano. E lei, vabbè, la conoscete, lei è la Costa, che altro c'è da dire? Anzi, ecco, una cosa mi viene subito da chiederti. C'è già paura, vero? No, perché quando si deve definire lei la Costa, no? Allora, attrice, e lo sappiamo. Scrittrice e lo sappiamo, donna di televisione e lo sappiamo, ma da qui a 1000 anni, se dovessero intitolarti una strada via Lella Costa, anzi via Gabriella, tra parentesi detta Lella Costa, sotto che definizione vorresti avere? Soubrette. No, davvero, sono molto seria. La grande tradizione, io quando dico soubrette io penso a Delia Scala, per capirci. È una grandissima tradizione di quella molteplicità di talenti e di generi, di mestieri, quella padronanza del palcoscenico e anche però quell'orecchio, quella capacità di improvvisare, quell'intonarsi, è una bellissima definizione che ogni tanto sconcerta, ma qualcuno pensa che lo dica per civetteria, non è così, secondo me è una bellissima definizione. E quindi Lella Costa Soubrette, che non esiste più perché non si sa cantare, recitare, ballare, far televisione, far teatro, far cinema. No, anche perché per fare televisione è indispensabile non saper fare alcuna delle cose che hai citato, quindi sai, è un po' un ossimoro, o sei soubrette o fai la televisione. Vabbè, allora Lella Costa Soubrette invece possiamo affermarlo con decisione. Di che libri abbiamo deciso di parlare oggi pomeriggio? In questi incontri noi parliamo di libri che vorremmo restassero nel futuro, insomma, ai nostri figli, ai nostri nipoti, insomma, che possano avere un significato particolare. Quando io e Lella, insomma, ci siamo maillate, come si dice in gergo, di che libri vorresti parlare così, io ho detto, ma mi piacerebbe, Lella, se tu parlassi di Piccole donne. E lei mi ha risposto, mi ha letto nel pensiero, perché ci siamo capite al volo. E poi Alice, inevitabilmente, perché lo sapete, Lella Costa ha fatto proprio uno studio su Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice attraverso lo specchio, quando nel 2005 ha fatto questo spettacolo teatrale che si chiamava Alice, una meraviglia di paese. Prima domanda, allora, a questo punto. Tu hai fatto anche una prefazione ad un'edizione di Alice. Mi guardi con sospetto. No, perché non me la ricordo più, la prefazione. Che ho cercato. Non ti ricordi cosa hai scritto? No, assolutamente. Ero probabilmente posseduta da qualche entità. Tu racconti sostanzialmente che l'incontro con i classici può avvenire in qualsiasi momento della vita. Non è detto che i classici si leggano a 20 anni, uno li può leggere anche a 80 per la prima volta. Quando è avvenuto il tuo incontro con questi libri di cui parliamo oggi pomeriggio, Piccole donne e le due versioni di Alice? Allora, sicuramente con entrambi, anzi insomma con tutte e tre nell'infanzia, anche se no, forse attraverso lo specchio non l'ho letto da bambino, ho letto Alice nel Paese delle Meraviglie. Sicuramente Piccole donne crescono, Piccoli uomini e Figli di Joe, tutto il repertorio, tutto stampato nei neuroni che ormai sono intasati da quella roba lì e non se ne va. Alice con molta più inquietudine. Io, nella lettura di Alice da bambina, io ricordo qualcosa di, appunto, di inquietante, che mi aveva lasciato dei pensieri come delle piccole paure, un timore, il senso di avere varcato una soglia o di essere entrata in un mondo che, insomma, non era esattamente soltanto quello che sembrava. Ma quanti anni avevi quando l'hai letto, più o meno? Guarda, non lo so, ne avrò avuti. 10 anni, 12 anni. Sì, forse anche meno. Io sono stata lettrice precoce, onnivora, e quindi non te lo so dire. Mentre Piccole donne, totalmente rassicurante e soprattutto lettura comune a generazioni e generazioni di femmine. Tutte le ragazze, tant'è che io ho fatto uno spettacolo nell'88, figurarsi, che si chiamava Coincidenze, ma che guarda caso come sottotitolo aveva Piccole donne crescono, che era come uno strizzarsi l'occhio tra femmine. Ma la cosa incredibile è che in tutti gli anni, ogni volta che in una situazione appunto da palcoscenico mi è capitato di tornare sul tema Piccole donne, cercando cosa, indipendentemente dall'età e dall'esperienza, dalla storia personale delle ragazze, che per me è notoriamente una categoria dello spirito e nulla a che fare con l'anagrafe, se una è ragazza per sempre, non è che poi smette, no? Alla domanda mia, ma voi delle quattro sorelle con chi vi identificavate, la risposta è sempre stata, non deludete. Non è vero, non è vero. Ma sì, una volta una ragazza, era a Lonzano, una ragazza in prima fila mi ha risposto, io con Bette, le ho detto, già è solo un po' di tosse, hanno inventato la penicillina, passa. Tu fammi questa, allora io ho portato la versione originale di quella che ho letto a 9 anni, è stato il mio primo libro che ho letto insieme a Salgari. Con chi ti identificavi? Allora, io non mi identificavo, ma mi piaceva Bette, perché ero una ragazzina a modo che rispettava le regole, ero tutta modino. Ma è morta, non va bene. Lo so che è morta, bene, lo so che è morta, di Noi, Tisi, comunque, non mi ricordo. Ma comunque, Joe o Bette, hai capito? Eh sì. Beh. Emi no, perché era troppo frivola. C'è tutta l'oblazione di sé, c'è tutto il sacrificio, tutto il non ci meritiamo niente, dobbiamo pagare tutto, dobbiamo sacrificare. Non va bene, Emi era da prendere esempio. Emi è quella che ha capito tutto. Amy è quella che ha fatto strada. Io Amy me la figuravo con un accento vagamente un pochino toscano, sa, un po' così distaccata, dice, sì, sono la più graziosa, c'ho ricci biondi, mi dispiace Josephine, ci voglio in Europa, la zia ricca, stronza, stronza, stronza, sapeva quanto ci tenesse giù. E si cucca Lori. Eh sì. Era giovane, bel bello, partito, carino, ricco. E a noi piace Joe e non stiamo bene, ragazze. No, c'è qualcosa che non va. Amy oggi avrebbe fatto, non so, il Grande Fratello, qualcosa di così. No, sarebbe, no, secondo me faceva il ministro subito. Te lo dico, ah, subito, subito, senza passare dal via. Senza passare dal via, come il Monopoli, no? Andava come il Monopoli. No, devi parlare, Lella Costa è qui per parlare, siamo fra amici, ci ascoltano solo 2 milioni di ascoltatori quando andremo in onda, però siamo fra amici, quindi possiamo dire quello che vogliamo. Vabbè, io ero insomma una pappamolla, mi identificavo con Beth. No, niente affatto. No, non mi identificavo, mi piaceva questa cosa struggente del pianoforte. Ne hai parlato col tuo analista nel corso degli anni? Sì. Ho fatto 10 anni di analisi apposta, perché insomma, e poi sono diventata Joe, adesso assolutamente mi identifico con Joe, ma non Meg ci sono. Non se l'è mai filata nessuno. No. È troppo perbenista, troppo così, troppo. Vabbè, no, allora, in Meg non c'era nessuna possibilità né di sogno né di evasione, cioè di identificarsi con Meg voleva dire arrendersi subito allo schema, ti sposi, fai figli e da lì non ti schioderai mai, no? Diventi appendice di un marito, poi anche il marito. Non è sì, che insomma, sia, no? Non è che. Però io ho notato nella sindrome di Joe proprio questa perversione esponenziale. Per cui lei con cui noi ci identificavamo perché sì, perché era quella rivoluzionaria, perché era quella libera, era quella che, vi ricordate, si tagliava la treccia, vendeva i capelli e poi andava a vivere da sola, si metteva a lavorare per mantenersi, continuava a scrivere. Andava a New York. Quindi andava a New York, faceva delle robe avanzatissime, era tutte noi. Chi ha finito per sposare? Il professor Bauer. Non posso dire, si può dire il segaiolo due mentale. Due palle, professor Bauer, il segaiolo mentale. Era sì, molto più grande di lei, vedovo, sì, con dei figli già grandi, noioso, che era noioso, sempre lì che la metteva a posto e la rimproverava perché scriveva le robe troppo splatter. E infatti, cioè, non hanno avuto figli loro e lei si è tirata in casa un sacco di orfani, figli di... Cioè, ma una roba, una vera mentecatta, votata al sacrificio. Comunque non si è suicidata. Ed è già... Vada. Adesso nella lettura che prima abbiamo fatto di Piccole donne, c'era il pezzettino di Joe dove si diceva che Joe avrebbe quasi voluto essere un uomo, no? Ma insomma, per essere libere, per essere autodeterminanti, bisogna essere maschi? Hai una domanda di riserva? No, è ovvio. Ti metto le cuffie, no, così hai un po' di tempo per rispondere. No, a parte che mi veniva in mente, voi vi ricordate di preciso in quale cacchio di guerra fosse andato il papà di Joe? Secondo me non c'era nessuna guerra, pur di non stare in casa con tutte quelle peppie, lui fingeva il conflitto, ma non era vero, era per stare lontano da casa. Molti uomini fingono tante cose, lo quindi... sappiamo, noi sorelle di Sharon Stone, noi abbiamo una citazione preferita in comune, sì, che è una citazione di quel genio di Sharon Stone, che dice che forse le donne fingono gli orgasmi, ma gli uomini sanno fingere intere relazioni. E quindi, ed è una grandissima verità, insomma, di Sharon Stone, nostro guru. Però scusa, sai, sicuramente, e non soltanto in quei tempi, ma a maggior ragione in quei tempi, il maschile comportava una libertà, se non altro, un'assunzione di responsabilità in prima persona, un'autonomia che altrimenti era molto difficile conquistare. Quindi mi sembra del tutto comprensibile che Joe aspirasse a quello. Mi sembra un po' meno comprensibile che ancora oggi possa essere un'aspirazione, cioè che per trovare un nostro senso, un nostro passo nel mondo, dobbiamo passare da lì. Però è anche vero che il problema non sta nell'essere diversi tra i maschi e le femmine, che è noto, e non sta neanche negli uomini intesi come singoli individui, perché non è certo quello il problema, anzi io credo davvero che se non la stragrande maggioranza, una buona maggioranza di uomini siano molto più vicini a noi e molto più, almeno potenzialmente, dei complici, degli eccellenti compagni di strada. Il problema sta la relazione con il maschile, che ha inventato e stabilito il passo del mondo da alcune migliaia di anni a questa parte. Ed è questo il problema, è confrontarsi con quello e adeguarsi a quello che ci porta magari non del tutto consapevolmente, ad assumere degli atteggiamenti e dei comportamenti che sono maschili, ma il problema. Però negli ultimi anni, ecco, c'è stato il femminismo degli anni 70 che ha messo in discussione molti aspetti del maschile, oltre che del maschilismo, che sono due cose completamente diverse. Negli ultimi anni si parla della differenza di genere, no? Di valorizzare le differenze fra maschio e femmina, fra uomo e donna. Questa è una strada secondo te percorribile? O è semplicemente così, la scoperta dell'acqua calda? No, è l'unica strada possibile, ma con un equivoco sul quale forse non siamo state abbastanza accorte a puntualizzare. A un certo punto è stata creata, non so se in laboratorio o a tavolino, la questione femminile. Ci si è resi conto che non si poteva più rimandare, che era un tema che andava affrontato, e così è stata creata la questione femminile, sono state create le pari opportunità, sono stati creati i luoghi e i topoli, insomma, deputati a questa questione. Per cui, in qualche modo, è passata la convinzione, la comunicazione che la questione femminile, le questioni femminili riguardassero le donne. E non è così. Le questioni femminili riguardano l'umanità. Il fatto che la parità di diritti, lo sfruttamento delle risorse, dei talenti, la parità di visibilità, non è una roba che noi facciamo solo per noi stesse, lo facciamo per il mondo. Il fatto di non valorizzare, di non dare spazio e peso ai talenti infiniti delle donne, è, oltre che molto stupido, profondamente autolesionista, perché è il mondo che ha bisogno dei talenti delle donne, non sono le donne che hanno bisogno di essere gratificate, di avere gli spazi più o meno graziosamente concessi. Questo qui è un capovolgimento di sguardo e di punto di vista che ancora si fa un po' di fatica a fare, ed è secondo me quello cruciale. Una volta che avremo fatto questo insieme, maschi, femmine, cantanti, come diceva De André, forse lì si può fare il vero passo avanti, insomma, finché saranno solo le donne a dire se non ora quando o altre cose del genere, insomma, alla fine si rimane sempre un po' in un cantuccio. Ma soprattutto finché, come si diceva prima, il mondo sarà formato a immagine e somiglianza del maschile, che ripeto, non vuol dire degli uomini, perché così come io credo che molti uomini non si sentano del tutto a proprio agio con certi stereotipi, con certi modelli di comportamento imposti, che sono antichi, che sono obsoleti, che non ci assomigliano più, così ci sono delle donne che io tendo ad assolvere un pochino di più, che per forza di cose si sono adeguate a quei modelli lì, no? E quindi a lei, quei luoghi comuni, che le donne quando arrivano al potere sono peggio degli uomini, e lo credo, paghi dei prezzi talmente più alti, devi sottostare a dei passi che non sono mai i tuoi, che sono imposti da altri, e lo credo che poi tiri fuori le unghie. Così come quell'altra fola che non esiste, la solidarietà femminile, che scandalo, che roba, che brutte, che cattive. Allora, io non credo che sia vero, ma mettiamo anche che sia vero. Ma perché? Qualcuno può sostenere che esiste la solidarietà maschile? Cioè, ma dove? Ma non lo so, la storia è tutta lì, da Caino a Prodi è tutta lì da vedere, non lo so. Ma com'è possibile che non ci ribelliamo a questi luoghi? Prodi come vittima, ovviamente, avrei dovuto dire da Abele a Prodi, povero uomo. Ma insomma, ce n'è anche Bersani, nominandolo da vivo anche lui. Quindi, in senso... Com'è possibile? E noi li facciamo passare questi luoghi comuni. E non è vero. È possibile che ci siano delle situazioni di conflittualità tra le donne, e lo credo. Ma nessuno si sognerebbe mai di aspettarsi dagli uomini, in quanto tali, una solidarietà sempre e comunque, a prescindere da qualunque contenuto. Cioè, bisogna che ci siano degli altri tipi di condivisione, no? Che siano ideali, politici, ma certo, ma morali, calcistici, religiosi. Qualsiasi cosa, però, l'importante è fare squadra. Ma devi avere dei temi sui quali che condividi. Invece da noi ci si aspetta che siamo sempre e comunque solidari. A prescindere. E se non lo siamo, ma che roba! Ma non siete solidali neanche tra di voi, figurarsi come potremmo esserlo noi con voi. Cioè, io ho una mia teoria, scusate, poi la smetto, ma è un tema che mi sta a cuore. No, non una teoria, una sorta di frase simbolo che in questo modo, in qualche modo, è anche un po' una sintesi. A un certo punto la questione femminile si è posta in modo non più differibile. E più o meno, io credo, nella seconda metà dell'Ottocento, siamo appunto nell'epoca di Piccole Donne. Tra l'altro, se non ricordo male, la Louisa May Alcott, autrice di Piccole Donne, era un tipetto niente male, eh? Era una che nell'emancipazione, allora si chiamava così, credeva nell'istruzione delle donne come passaggio indispensabile, insomma, era forte intento pedagogico in realtà nei suoi libri, anche solo il fatto di scegliere delle protagoniste. facci caso, come siamo condizionati dal linguaggio, ma succede anche a me che ci faccio caso, stavo per dire delle protagoniste donne, così come dice, perché ci sono delle attrici donne, e basta attrici, no? Dovrebbe bastare attrici, e invece è come se non fossimo mai neanche del tutto convinti. Cosa stavo dicendo secondo te, Alessandra? Tu stavi dicendo una tua teoria, hai detto no, che non è c'è una teoria, è una frase che è minimamente cambiata nel tempo. Allora, seconda metà dell'Ottocento, questione femminile che si pone, piccole donne crescono, nasce una frase, o comunque diventa, così, si condivide questa frase, dietro ogni grande uomo c'è una donna che soffre. Impeccabile, quadro molto verosimile, la cosa che colpisce di più è la preposizione o avverbio, dietro, no? La donna sta dietro, soffre, sta male, ma sta dietro. Passano un po' di anni, 50, 60, si arriva al Novecento, si arriva alle grandi battaglie per i diritti, per l'emancipazione, per la parità, per il lavoro, tutto quanto, la frase subisce una piccola modificazione. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, più paritaria, ma dietro. L'importante è che non ti schiodi da lì. Secondo me la versione contemporanea più attendibile, o che almeno io sento più mia in questi anni, è: dietro ogni grande uomo c'è una donna stupefatta, che non si capacita che il mondo se la beva, che quello lì è un grande uomo. È così. Ma, ancora una volta, dietro, dalla casa, che è esattamente il luogo in cui per forza o per amore è cominciato tutto. Qualunque forma di comunicazione, qualunque forma di creazione artistica, noi l'abbiamo per forza dovuta cominciare dietro, dentro, nelle stanze delle case. Ed è chiaro che abbiamo da recuperare secoli di dimestichezza con il mondo, di dimestichezza e di confidenza con i linguaggi del mondo, perché noi stavamo dietro. Stavamo là e loro andavano e purtroppo tornavano ci tengono ancora anche il signor Marcio è tornato un pochino dietro. Alice, il tuo incontro con Alice è stato meraviglioso. Prima hai detto all'inizio ti ha creato qualche problema, insomma, io quando ero piccolina per esempio non mi stava simpatica Alice, appunto perché ero tutta una bambina precisina, rispettavo le regole, e Alice mi faceva venire i nervi. Cioè, Alice, non andare lì, cioè, ma si capisce che è una cosa che potenzialmente può essere pericolosa. Invece, vedi, poi a 43 anni, insomma, si cambia e dice, ah, caspita, come avrei voluto seguire Alice. Come è cambiato il tuo rapporto con Alice dai primi turbamenti così che ti ha creato fino a innamorartene poi così tanto da dedicarci un intero spettacolo teatrale? Ma credo che ci siano state delle fasi intermedie, dal primo incontro infantile allo spettacolo da adulta, diciamo. C'è qualcuno che ci viene a dire una comunicazione di servizio. Siamo lunghe. Guarda come ti guardo negli occhi e capisco. È un uomo, è facile, non è che c'hanno tutti questi codici. Quindi siamo lunghe e quindi dobbiamo tagliare. No? È questo che ci vuoi dire? No, tu rispondi. Io e rispondo. Poi facciamo... cosa stavo dicendo? Mi distrago. Che fra il primo incontro e lo spettacolo teatrale ci sono c'è state delle fasi. C'è stata la consapevolezza che quel libro è un'esperienza straordinaria, cioè è un vero viaggio, perché l'autore di quel libro è un signore estremamente singolare, per biografia e per qualità artistiche, per talenti e per conoscenze, perché il reverendo Charles Dodgson, in arte Lewis Carroll, era un diacono inglese, qualcuno l'ha definito il casto pedofilo, ma poi qui avremo è un da tema raccontare. Sul quale io ho sempre avuto una specie di ricerca, non mi potevo capacitare. Sicuramente il suo rapporto con Alice Liddell, con Alice, è stato estremamente gravoso per lei ragazzina, ma forse anche per certi versi estremamente stimolante, perché le ha creato un universo. Ma la cosa straordinaria che mi ha colpito a un certo punto era che per raccontare, per accompagnare attraverso un viaggio, che era un viaggio fantastico, un viaggio metaforico, un viaggio fantasioso, un viaggio libero, un viaggio davvero nei futuri possibili, abbia scelto come unica possibile protagonista una bambina femmina di 7 anni e 6 mesi. Quindi tutto quello che ancora doveva venire. E io capisco che Alice possa inquietare per questa sua libertà assoluta. In realtà però lei era molto precisina, eh? Era molto che cercava di tenere tutto sotto controllo, questa cosa del piangere ma non indulgere nel pianto, questa frase straordinaria di Alice che diceva comunque anche nelle difficoltà, nella solitudine, nella paura, nell'essersi persa in posti davvero spaventosi, dire no, io vado avanti, io indietro non ci voglio andare, che è forse da lì che è nata una delle frasi del 77, insomma di quegli anni lì in cui non a caso era nata una radio che si chiamava Radio Alice nel nostro paese, nella nostra cultura alternativa di quegli anni, e uno degli slogan di Radio Alice era non faremo un passo indietro nemmeno per prendere la rincorsa. Quindi credo che Alice sia penetrata in noi con una capacità di scardinare quello che, i saperi, di scardinare i luoghi comuni, di scardinare i punti di vista, e in questo senso è, non ne fai uno, ne fai cento di spettacoli, perché a ogni paragrafo trovi un incantamento nuovo. Secondo me devo fermarmi perché c'è qualcuno inquieto. Allora sentiamo altri estratti da Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice attraverso lo specchio e Piccole donne. Lowry si stava amabilmente dondolando su e giù nella sua amaca in un caldo pomeriggio di settembre, chiedendosi curioso cosa le sue vicine stessero facendo, ma troppo pigro per andare a vedere di persona e scoprirlo. Era in uno dei suoi momenti di cattivo umore. La giornata non era stata né interessante né appagante ed aveva il cocente desiderio che potesse ricominciare per poterla vivere meglio. Il gran caldo lo rendeva apatico. Aveva trascurato i suoi studi, messo alla prova la pazienza del signor Brooke e si era buttato sulla sua amaca, riflettendo sulla stupidità del mondo in generale, finché la pace della meravigliosa giornata lo aveva calmato, suo malgrado. Guardando in alto, attraverso il verde cupo degli ippocastani che frusciavano sopra di lui, fantasticava sogni di ogni sorta e stava giusto immaginando di essere sballottato tra i flutti dell'oceano in un viaggio intorno al mondo quando un suono di voci lo risvegliò d'un lampo. Spiando tra le maglie dell'amaca, vide le ragazze marce uscire come se si apprestassero ad una spedizione. Cosa mai staranno tramando ora quelle ragazze? Le sorelle sedevano tutte insieme sotto i pini. Il sole e le ombre si rincorrevano su di loro, l'aria profumata scompigliava i loro capelli e rinfrescava le loro guance accaldate. Meg, seduta sopra il suo cuscino, cuciva delicatamente con le sue mani bianche. Beth stava scegliendo le pigne che cadevano fitte dagli abeti per farne oggetti molto graziosi. Amy stava disegnando un gruppo di felci e Joe lavorava ai ferri leggendo ad alta voce. Lowry rimase lì, così immobile che uno scoiattolo indaffarato, tutto preso dal suo raccolto, fece rotolare una pigna fin contro di lui. Lo vide all'improvviso e scappò via, con uno squittio così acuto che Beth alzò gli occhi, vide il suo viso attento dietro le betulle e lo salutò con un sorriso rassicurante. «Posso venire anch'io, per favore?» «O sono di troppo?» chiese avvicinandosi lentamente. «Non ho nulla in contrario, se farai qualcosa. È contro le regole stare qui inerti», replicò seria, ma gentile, Meg. «Ah, grazie tante. Farò qualsiasi cosa se voi mi farete restare con voi. È noioso come il deserto del Sahara stare giù da me. Cosa devo fare? Leggere, raccogliere pigne, disegnare, cucire o tutto quanto insieme?» E Lowry si mise a sedere con un'espressione deliziosamente remissiva. «Finisci di leggere, mentre io termino il lavoro», disse Joe, porgendogli il libro. «E a che serve un libro?» pensò Alice, senza le figure e i dialoghi. E andava fantasticando nella sua testolina come meglio poteva, perché il gran caldo l'aveva resa sonnacchiosa e le faceva sentire la testa tanto leggera. se il piacere di fare una ghirlanda di margherite valesse la noia di alzarsi e raccogliere i fiori. Quando ecco un coniglio bianco con gli occhi di rubino le passò vicino. A dire il vero, non c'era troppo da meravigliarsi di ciò, e Alice non pensò che fosse cosa troppo stravagante, nemmeno sentire il coniglio che diceva fra sé: «Povera me! Povera me! Ho fatto tardi!» Effettivamente, quando in seguito si rammentò della cosa, s'accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma allora le sembrava una cosa del tutto naturale. Ma quando il coniglio estrasse un orologio dal taschino del panciotto e vi fissò gli occhi e scappò via, Alice saltò in piedi, perché si era ricordata che non aveva mai visto un coniglio col panciotto e il relativo taschino, né tantomeno con un orologio da metterci dentro, e divorata dalla curiosità attraversò il prato correndogli dietro e lo raggiunse proprio in tempo per vederlo lanciarsi in una grossa tana sotto la siepe. Un istante dopo Alice scivolò giù correndogli dietro senza stare a pensare come se mai sarebbe riuscita a uscirne. La tana per un po' filava dritta come la galleria di un tunnel, poi si incurvava verso il basso tanto rapidamente che Alice non ebbe nemmeno un minuto per considerare se avesse potuto fermarsi, poiché si sentiva cascare giù rotoloni in un qualche precipizio che assomigliava proprio ad un pozzo profondissimo. Ora, una delle due: o il pozzo era arciprofondo o vi stava ruzzolando proprio adagino, poiché ebbe tutto il tempo, mentre cadeva, di guardarsi tutto intorno e di stupirsi pensando a ciò che le sarebbe accaduto dopo. E giù, più giù di più sarebbe mai finita quella caduta. Chissà quante miglia ho percorso a quest'ora, davvero sto per toccare il centro della terra. E giù, più giù di più, non avendo nulla da fare, Alice cominciò a ciondolare tra il sonno e la veglia e già cominciava a sognare quando tonfete cascò d'un tratto sopra un mucchio di ramoscelli e di foglie secche e la caduta finì. Alice non si era fatta per niente male e saltò in piedi, lesta e pronta. Guardò in alto, era buio, pesto. Davanti a lei sfilava un lungo corridoio percorso dal coniglio bianco che le stava ormai fuggendo, non c'era tempo da perdere. Alice, con le ali ai piedi, si lanciò all'inseguimento e lo sentì esclamare mentre svoltava un angolo: «È tardi, è proprio tardi, ohimè!» Era proprio sul punto di raggiungerlo, ma appena svoltò l'angolo il coniglio era scomparso. Ed ella si ritrovò in una sala lunga e bassa, illuminata da una fila di lampade che pendevano dal soffitto. Tutto intorno alla sala v'erano porte, ma erano tutte chiuse a chiave. Dopo che Alice era andata su e giù provando tutti gli usci per vedere se fosse mai possibile aprirne uno, ma sempre inutilmente, si mise a camminare mestamente nel mezzo della sala, pensando come mai avrebbe potuto venirne fuori. Tutto a un tratto capitò vicino a un piccolo tavolino di cristallo solido e sorretto da tre piedi. Su di esso non c'era nient'altro che una piccolissima chiave d'oro. La prima idea che ebbe Alice fu che per aprire una delle porte della sala ci voleva quella chiave. In questo estratto di Alice si vede proprio uno dei temi fondanti di questo romanzo: la dilatazione e la modificazione del tempo e dello spazio. È tardi, è tardi, è tardi il coniglio. Lei però precipita in questo pozzo come lentamente, e poi si trova in questo corridoio basso, e poi lo sappiamo, mangia il biscottino, diventa alta, bassa, cambia dimensione, tutto. Ecco, sempre nel modo sbagliato, come appunto dicevi, che cosa rappresenta secondo te questo sfasamento totale del tempo e dello spazio? Ma allora, il tema del tempo è uno dei più affascinanti e inebrianti, per così dire, di Alice, ed è uno dei grandi temi di fascinazione che hanno reso poi Alice un personaggio così caro, per esempio, a tante generazioni, sicuramente dalla seconda metà del Novecento. Fateci caso, Alice come nome di battesimo, è un nome di più che altro di figlie, nipoti, no? Non è un nome di mamme, nonne. No, è un nome recente. È come se a un certo punto si fosse... E questa cosa del tempo che gira su se stesso, quindi l'illusione, la tenera illusione di poter avere tutto il tempo del mondo è stata davvero una delle grandi utopie di alcune generazioni fa, insomma, no? Quindi Alice ha rappresentato questo. Abbiamo tutto, we have all the time in the world, il tempo. C'è una frase folgorante che dice, le regine parlano del tempo e prendono in giro Alice per i luoghi comuni che lei dice, no? Cioè, come sarebbe a dire, battere il tempo? Ingannare il tempo? Che cosa dici, bambina? Immagino tu non abbia mai neppure parlato con il tempo. E un'altra che è folgorante, che dice, avresti dovuto vedere il tempo che c'era ai miei tempi. Avresti dovuto vedere il tempo che c'era ai miei tempi. Io faccio parte di una generazione che ha avuto un tempo bellissimo. Il tempo che abbiamo avuto ai nostri tempi è stato un tempo talmente bello, talmente ricco, talmente infinito, sembrava non finisse mai, che abbiamo fatto molta fatica a staccarci da quell'idea di infinito che portava con sé Alice. Abbiamo fatto molta fatica a staccarci dalla mano di Alice. Per quel che riguarda appunto questa sua sfasatura, no? Mangia sempre il pezzo di fungo sbagliato rispetto al mondo, per cui è troppo. Ecco, io non lo so, come sempre le interpretazioni sono arbitrarie, no? Sono chissà che cosa davvero voleva dire Lewis Carroll. Io ci ho visto, e credo che sia legittimo, ci si possa vedere anche questo, una sorta di metafora della costante sensazione di inadeguatezza che noi ragazze ci portiamo appresso, no? Cioè, ci ho scritto una filastrocca. È bellissima, infatti Stefano io Bollani avrei voluto concluderci, ma facciamola ora. Ma no, ci la concludiamo. Ma dopo li teniamo sul gusto, ce la giochiamo come finale. Ma sì, facciamo una cosa teatrale proprio, siamo qui al Piccolo Teatro di Milano, facciamo una cosa teatrale. Però no? Facciamola dopo, in finale che chiude bene, però a proposito del tempo e della seduzione del tempo in Alice, una delle cose che a me hanno strappato un pezzo di cuore quando l'ho letta, io ho letto quella roba lì e sono stata veramente, mentre pensavo allo spettacolo, scrivevo lo spettacolo, sai quando ci metti davvero un po' a metabolizzarla perché era una cosa troppo forte, fate conto, era la fine del 2004, Alice ha debuttato nel 2005, io leggo, rileggo con lo sguardo di chi ci sta costruendo sopra una narrazione teatrale, un pezzo in cui, sempre attraverso lo specchio, una delle regine di punto in bianco prende Alice per mano e la trascina in una corsa. Una corsa incalzante, una corsa che sembra non finire mai e continua a dirle più svelta, più svelta. Alice corre, è una bimba, ce la mette tutta e non basta mai, più svelta bambina, più svelta, più svelta. E corrono, corrono, corrono per un tempo infinito, corrono, corrono, corrono. E quando Alice veramente non ce la fa più, le sembra di non avere più fiato, la regina si arresta. Quindi di colpo Alice per il contraccolpo si ritrova a terra, senza fiato, la testa che le gira, ma si rende conto immediatamente che dopo tutto quel correre forsennato non si sono spostate di un passo, sono rimaste esattamente sotto lo stesso albero. E perché, bambina? Dove dovremmo essere? Beh, non lo so, maestà, però al mio paese si arriva da qualche altra parte quando si corre così tanto. Che paese lento! Qui devi correre più che puoi se vuoi restare sempre nello stesso posto. Se vuoi arrivare da qualche altra parte, devi correre molto di più, almeno il doppio. Una metafora attualissima. Beh, insomma, forse anche noi abbiamo attraversato uno specchio e siamo finiti in un mondo alla rovescia, perché anche qua bisogna correre sempre di più per restare sempre nello stesso posto. Però ecco, non mi aspettavo da te quest'area così nostalgica dei tempi. Prima hai detto i nostri tempi, abbiamo fatto fatica a staccarci dalla mano di Alice. Beh, non è nostalgia, provare a raccontare. Ma perché? Perché c'erano più ideali, perché ci si sentiva più solidali, perché ci si sentiva più impegnati. Cosa? Perché esattamente come dice, allora a un certo punto Alice dice... Non si possono creare. Alice era molto seria, molto logica, molto ben piantata per terra, nonostante quello che pensi tu. Infatti a un certo punto replica a una regina, ma insomma non si possono credere le cose impossibili. E la regina risponde, scherzi bambina, è solo una questione di allenamento. Io alla tua età riuscivo a credere a 6 cose impossibili già prima di colazione. 6 impossible things before breakfast. Noi abbiamo siamo una generazione che ha creduto a ben più di 6 cose impossibili prima di colazione. E quindi abbiamo fatto fatica a pensare che insomma forse bisognava trovarne almeno una, però poi portarla fino in fondo a tutti i costi. Ma non è nostalgia, no, non è nostalgia. È proprio l'innamoramento che ti viene quando lavori su un classico, lo leggi e dici, oh porca miseria, parla di noi, ma parla di noi domani. Ed è questo strepitoso nei grandi classici, e Alice lo è. Insomma, quando Alice incontra nel Paese delle Meraviglie, incontra Humpty Dumpty, che è un personaggio odioso, da noi non vuol dire niente, è una filastrocca inglese, Humpty Dumpty is out on the wall, no? Sì, è un nonsense. È un ovoide odioso, arrogante, saccente, permalosissimo. Lei è terrorizzata che sta in cima a un muro, è un uovo, nella filastrocca cade dal muro, quindi Alice vuole evitare grane pendenze penali o civili e cerca di non farlo, di non alterarlo, non farlo cadere. E a un certo punto lui le dice delle cose sgradevoli e poi dice, comunque sei molto fortunata ad aver incontrato me, bambina. Io sono un uomo meraviglioso, amato da tutti, sono probabilmente l'uomo, se non mi ricordo l'aggettivo esatto, sono l'uomo più arrogante della terra. Alice gli dice, sì però, mi perdoni, ma arrogante non vuol dire quella cosa lì. Replica di Humpty Dumpty, come ti permetti, bambina? Quando io uso una parola, questa parola assume il significato che io decido, perché io le parole le pago. Stiamo parlando del 1853. Infatti, prima di sentire ancora due estratti, dobbiamo parlare, no, vi devo dire una roba di Piccole Donne che ho scoperto. La sua edizione di quando era piccola non è che sia un'edizione anteguerra, eh? 1975. Ah, okay, calma, ho 43 appunto, anni, non è che sia, è un'edizione del 1975, dice la quarta di copertina. La storia ancora oggi affascinante delle quattro sorelle Marchi, Margherita, Giuseppina, Elisabetta e Amina, araba suppongo, cioè, Amina? Amy è diventata Amina, tu non hai avuto un'infanzia felice. No, hai capito, perché io poi 10 anni di analisi, certo, perché 10 anni di Amina Marchi. Avrei ma fatto meglio credo a leggere Alice nel Paese delle Meraviglie, invece sono stata vittima del cartone disneyano e quindi mi sono fermata lì. Beh, devo dire che il cartone disneyano è uno dei più clamorosi, eh? È veramente, ha dentro una qualità visionaria, forse il più lisergico dei cartoni dei film di animazione disneyani, proprio perché Alice è piuttosto lisergica di suo. Mi veniva in mente prima, mentre sentivo la lettura dell'inizio di Attraverso lo specchio, Alice che cerca di coinvolgere Kitty, che è la più sveglia, Dinah è la sua gatta storica, Kitty è la gattina, è la più piccola ma più sveglia, e cerca di coinvolgerla nel gioco del non aver paura, attraversiamo lo specchio. In realtà, giustamente, la traduzione prova a immaginare, ma se non ricordo male, l'originale dice imagine. Per dire quanto Alice è presente nella cultura, soprattutto anglosassone, John Lennon, Imagine, l'ha proprio presa da lì. È proprio quel gioco lì. It's easy if you try. È facile. Proviamoci, basta crederci. Per quello si fa fatica a staccarsi da Alice da grandi. No, io rimango veramente sconcertata dalla telepatia che abbiamo ieri nella cosa, perché stavo esattamente per farti questa domanda sulla traduzione, di Alice, che sono meravigliose, nel senso che ci sono tante allegorie, tanti doppi sensi nelle parole inglesi che raramente si sono rese bene in italiano. Allora sentiamo magari altri due brani, sia di Alice che di Piccole Donne, così troviamo nuovi spunti per la nostra chiacchierata. Non sarebbe grandioso se tutti i castelli in aria che facciamo si avverassero e noi potessimo viverli, disse Joe, dopo una breve pausa. Ah, io ne ho fatti talmente tanti che sarebbe difficile scegliere quale sperare che si avveri, rispose Lori. Dovresti scegliere il tuo preferito. Qual è? Chiese Meg. Voglio diventare un famoso musicista, che tutto il creato correrebbe a sentire. E non voglio più essere infastidito dal denaro o dagli affari, ma solo divertirmi e vivere facendo quello che preferisco. Questo è il mio castello preferito. Qual è il tuo, Meg? Margaret sembrava trovare un poco difficile dire il suo. Io vorrei una bella casa, piena di belle cose, buon cibo, bei vestiti, mobili splendidi, persone care e un sacco di soldi. Io sarei la padrona di casa, organizzerei tutto a modo mio, insieme a tanti domestici in modo da non dover mai lavorare. Ah, quanto sarebbe bello! Non starei mai senza far niente, ma farei del bene e tutti mi amerebbero. E non vorresti avere un signore del tuo castello in aria, insinuò Lori. Perché non dici che vorresti uno splendido, intelligente, buon marito e qualche angelico bambino? Altrimenti lo sai, il tuo castello non sarebbe perfetto, disse brusca Joe. Tu non vorresti altro che cavalli, inchiostro e racconti nel tuo, rispose Meg, antipatica. Cosa vorrei io? Vorrei una stalla piena di cavalli da rabbia, stanze piene zeppe di libri e io ne scriverei di miei, con un calamaio grazie a un inchiostro magico. Così le mie parole mi farebbero diventare famosa, come la musica di Lori. Il mio è stare a casa al sicuro con mamma e papà e aiutarli a prendersi cura della famiglia, disse Beth, beata. Ah, io ho così tanti desideri, ma quello che preferisco è diventare un artista, andare a Roma e dipingere splendidi quadri e diventare la più grande pittrice del mondo intero. Era questo il modesto desiderio di Amy. Siamo un gruppetto di ambiziosi, no? Disse Lori, meditabondo, masticando un filo d'erba come un vitello. Mi piacerebbe sapere se uno di noi avrà quello che desidera. Io ho la chiave del mio castello in aria. Resta da vedere se riesco ad aprirne la porta, osservò Joe con un'aria di mistero. Anch'io ho la mia chiave, ma non mi concedono di provare ad aprirlo, questo castello. Dannato college! Brontolò Lori con un sospiro impaziente. Il nonno vorrebbe che io mi dedicassi ai commerci con l'India, come faceva lui, e io preferirei spararmi. Odio il tè, odio la seta, odio le spezie e ogni sorta di mercanzia trasportino le sue vecchie navi e non mi interessa se coleranno a picco non appena saranno mie, ma dovrei fare le stesse identiche cose che ha fatto lui, a meno che io non spezzi i ponti con lui come fece mio padre. Se ci fosse qualcuno in grado di stare con quel vecchio gentiluomo, lo farei domani. Ti consiglio di imbarcarti su una delle tue navi e di non tornare finché non avrai trovato la tua rotta, disse Joe. La sua fantasia era stata accesa dall'idea dell'audace impresa. Joe, questo non è giusto. Non devi parlare in questo modo e Lori non deve stare ad ascoltare i tuoi pessimi consigli. Tu dovresti esaudire i desideri di tuo nonno. Fai del tuo meglio al college. E quando lui si accorgerà che tu non tenti altro che di farlo felice, sono sicura che non sarà più così severo e ingiusto con te. Non ti perdoneresti mai se dovessi lasciarlo contro la sua volontà. Fai il tuo dovere e avrai la tua ricompensa, come l'ha il buon signor Brooke, tanto amato e rispettato. Ah no, ti prego, non ti offendere. Non volevo farti la predica, perdonami. Volevo essere gentile. E Meg gli tese la mano, anche se con una certa timidezza. Lo ristrinse vigorosamente la mano delicata. Non sono io quello che dovrebbe scusarsi. Sono stato tutto il giorno di malumore, ma mi piace che tu mi faccia notare i miei errori come farebbe una sorella. Quella sera, mentre Beth nel crepuscolo suonava il piano per il vecchio signor Lawrence, il ragazzo, ricordando la conversazione del pomeriggio, si disse: lascio perdere il mio castello e me ne starò con il mio caro vecchio nonno finché lui avrà bisogno di me, perché io sono tutto quello che possiede. Vorresti dirmi quale strada dovrei prendere da qui? E il gatto rispose: questo dipende molto da dove vorresti andare. Ma poco importa. Dove... Allora poco importa sapere quale strada dovresti prendere? Importa che arrivi in qualche posto. Ah, sta certa che lo farai. Se cammini quanto basta. Alice sentì che proprio non poteva contraddirlo in ciò. Allora tentò un'altra domanda. Che gente abita da queste parti? Da quella parte abita un cappellaio, da quest'altra abita una lepre marzolina. Visita pure che di due preferisci, sono entrambi matti. Ma io non voglio finire tra i matti. Ah, ma questo non puoi evitarlo. Qui siamo tutti matti. Matto sono io, matta sei anche tu. Come sai che... Io? Sono matta? Devi esserlo, altrimenti non saresti arrivata in questo posto. A Talice questa non parve una risposta soddisfacente. Tu vai quest'oggi dalla regina a giocare a croquet? Lo desidererei tanto, ma non sono stata ancora invitata. Allora ci vediamo là. Il gatto svanì. Alice non fu sorpresa dalla cosa, si era abituata a vederne parecchie di cose strane. Aspettò un poco, mezzo convinta che sarebbe riapparso nuovamente, ma quello non riapparve. E pochi istanti dopo si mise sulla via che portava dalla lepre marzolina. Di cappellai, già ne ho visti parecchi, disse tra sé. Io dico che sarà più interessante la lepre marzolina, e dato che siamo a maggio, e non sarà poi tanto matta dalle gare, sicuramente sarà meno matta di quanto non fosse a marzo. Mentre diceva queste parole, alzò gli occhi ed eccoti ancora il gatto accoccolato sul ramo di un albero. Ti prego di non comparire e scomparire come un lampo. Fa girare la testa. Giusto! E questa volta il gatto sparì lentamente. Cominciò con la punta della coda e finì con il suo ghigno. Questo restò come un'ombra sul ramo, dopo che tutto il resto era svanito. Oh, bella! Ho sempre visto un gatto senza ghigno, ma un ghigno senza gatto è la cosa più curiosa che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Alice sicuramente dà spazio all'assurdo, il ghigno senza gatto, e magari poi parliamo di questo assurdo del nonsense anche che c'è all'interno di Alice, ma per par condicio diamo un po' di spazio anche alle piccole donne che abbiamo un po' trascurato, no? In questo brano che abbiamo sentito, i castelli in aria delle sorelle March e di Lori, insomma, sono abbastanza... Io mi sono evidenziata qua sulla lettura quello di Beth, visto che io ero una pappamollina, e diceva voglio stare accanto a mamma e papà e prendermi cura della casa, una roba del genere. Ecco, proprio no. Ecco, adesso proprio no, no. Questa cosa. E secondo te che cosa rappresentavano questi castelli in aria dei vari personaggi? No, cioè, c'è Meg che cosa sogna, la casa? Sì, io credo che sempre, avendo studiato un pochino l'autrice, questo suo forte intento pedagogico di emancipazione delle ragazze, anche per un senso di realismo e di, appunto, di rispetto dell'esistente, avesse proprio individuato le quattro tipologie dando a Jo la visione, e comunque anche Amy, che in ogni caso a Roma voleva venire, quindi aveva capito perfettamente dove si faceva carriera, c'è comunque questa cosa del talento. Allora, Amy, che poi appunto noi un pochino sbeffeggiamo, ma in realtà era una con una bella autostima, e comunque voleva comprarsi le matite colorate, cioè aveva chiaro che cosa voleva fare. Jo voleva cavalli e libri, e non prevedeva un principe azzurro, un marito, un partner, un consorte. Questo era parecchio trasgressivo, quindi ci voleva inevitabilmente il contraltare rassicurante della noiosissima Meg e della povera Beth. Ma ribadisco, essendo Beth condannata fin da piccola, le si poteva anche far dire queste cose tenere, perché poi... Ma ci voleva, siamo anche alla fine voleva, dell'Ottocento, insomma, quindi voleva, c'era un'immagine voleva, insomma, standard, la no? Tisi, sai, poi la Tisi nell'immaginario maschile era quella roba, i tisici avevano fama di grandi amatori, le tisiche non credo, e quindi no, sai, poi non, la sessualità femminile non è che proprio fosse materia di dibattito all'epoca. Credo non esistesse proprio, non fosse neanche concepita. C'è chi sostiene che non esiste neanche tuttora, quindi figurati. Come dico Vabbè, spesso... Però adesso abbiamo almeno delle saggiste, anche delle scrittrici che parlano anche dell'eros dal punto di vista femminile. Un tempo sarebbe stato assolutamente inconcepibile. Certo, però tieni conto che tutto ciò che agli uomini è stato riconosciuto di default, come dire, come bagaglio quasi genetico, noi ce lo... Non è che soltanto ce lo siamo dovute conquistare, ci è stato a volte graziosamente concesso per attribuirci l'anima, hanno dovuto fare un concilio ecumenico, eh? E secondo me se ne sono pentiti un quarto d'ora dopo, avrebbero voluto ritrattare, ma a questo punto era fatto. Beh, non quindi... vorrei dire una cosa troppo seria, ma lo stupro è stato riconosciuto come reato contro la persona. Sarà negli anni 80, credo. Forse 90. 90. Sì. Prima era reato contro la morale, come se essere stuprate fosse un atto poco etico, poco simpatico. E non, cioè, essere aggrediti era più grave che non essere stuprati. Questo la dice lunga. Forse non era nell'intento della signora Alcott, però sicuramente lei in questo senso ha fortemente voluto essere una pioniera. Quindi secondo me in questo sogno, che tra l'altro mi veniva in mente, non per forzare i parallelismi, però sempre nelle storie di protagoniste di narrativa femminile che si emancipano, sempre ci sono i libri, non ce n'è. Penso a Jane Austen, penso anche, non so, proprio ieri sera ho condotto la serata finale di un premio Opera Prima. Le finaliste erano tre ragazze, giovani, molto determinate, e in ognuno dei loro libri, molto diversi tra di loro, c'era comunque questo passaggio di emancipazione attraverso la lettura. Che la signora Alcott l'abbia fatto all'epoca, e mettendoci comunque intorno un po' di avventura, un po' di giungla, un po' di brivido, cioè non era semplicemente... Gio voleva i cavalli e i libri. Sì, sì, certo, voleva la parte di avventura fisica e quella mentale, della quindi fantasia. Quindi è un personaggio, adesso poi viene carino, è facile canzonarla, ma è un personaggio potente. E la cosa degli animali non a caso è un motivo dominante nell'Alice di Lewis Carroll. In tutto il Paese delle Meraviglie Alice non incontra un solo, tranne il Cavaliere Bianco, che però è una metafora, non incontra un solo essere umano, incontra solo animali. Animali e piante animali, che si trasformano. Piante, ma comunque, e infatti tu prima parlavi delle difficoltà della traduzione, quando abbiamo cercato qualcosa che in italiano potesse dare il senso vertiginoso della filastrocca carroliana e contemporaneamente questo senso di creatività, di fantasia legato agli animali, abbiamo usato una filastrocca di Sergio Tofano, che è Le zanzare a Zanzibar vanno zonzone in bazar, che è geniale, sì, perché proprio perché ha dentro quella stessa follia lì. Anche perché quando, insomma, questo strano personaggio, prima lo dicevamo, lui era un reverendo, Lewis Carroll era uno pseudonimo, insomma, lui era un uomo di chiesa, aveva questa passione, no, per i bambini. Lui diceva... mi piacciono i bambini, punto, tranne i maschietti. Aveva questa passione, forse oggi sarebbe sicuramente, avrebbe il sospetto di pedofilia sicuramente, perché lui era anche fotografo, fotografava queste bambine, e la protagonista Alicia era la figlia, insomma, di amici di famiglia, ci sono queste fotografie, insomma, in pose abbastanza... C'è una lettera straziante che lui scrive nella vita vera, quindi non nella finzione, che scrive alla vera Alice Liddell a un certo punto, che è contemporaneamente giocare e saper giocare ancora col racconto, con la fascinazione della narrazione, ma anche con la realtà della vita, e le dice: per dimenticarti sono dovuto andare a lezione di oblio. E questo è molto, ti commuove, e poi dice: però il dottore è stato così bravo che alla fine mi sono dimenticato di pagarlo. E quindi è come se, come dire, lanciasse il sasso ma poi ritirasse la mano, o meglio ancora cercasse ancora di trovare quel linguaggio che era il linguaggio appunto della fantasia, dell'assurdo, del nonsense, quella complicità. Non abbiamo elementi, credo, per capire quanto... Sicuramente Alice, la bambina Alice Liddell, è stata molto segnata, ma molto segnata da questa relazione. Come sempre in tutte le relazioni fortemente squilibrate, per età, per strumenti, per conoscenze e per... quell'esercizio di un potere che possiamo pensare che in Carroll fosse assolutamente inteso a fin di bene, quindi non... Sì, non in senso predatorio. Non corruttore, ecco. No, però... No. Insomma, come era la Lolita, stata... invece, sì, di Nabokov, che era completamente diverso proprio l'approccio. Sicuramente. Però questo linguaggio del nonsense, no? Si diceva prima, ci sono anche delle filastrocche, c'è proprio una filastrocca specifica nel Alice attraverso lo specchio, no? Dove cioè ci sono delle parole inglesi che in realtà non possono essere tradotte, come si diceva prima. E questo senso dell'assurdo, che cosa rappresentano secondo te? Cioè, Alice ci dà la possibilità di vivere un mondo che non è mondo, cioè ci permette di fare il contrario di tutto. E questo è il motivo per cui Alice piace. Non lo so se sia soltanto questo, sicuramente appunto c'è l'assurdo, quindi c'è la sensazione di libertà assoluta, di nessun limite che è connaturata a questo, però c'è anche, e credo ci fosse consapevolmente in Carroll, quella che forse oggi chiameremmo satira o se vuoi metafora della realtà dell'epoca, dell'attualità. Ci sono delle intuizioni e delle narrazioni che poi sono diventate davvero archetipi e che poi abbiamo ritrovato. Allora, a un certo punto, nel mondo alla rovescia, tutto funziona alla rovescia, quindi il tempo scorre alla rovescia, la logica funziona alla rovescia, e quindi a un certo punto, non mi ricordo chi, forse la regina informa Alice che, adesso non me la ricordo proprio a memoria precisa, ma è che l'alfiere è stato condannato, quindi... entro un paio di giorni ci sarà il processo e quindi entro una settimana commetterà il reato. Se avete una curiosa sensazione di déjà vu, è la trama di Minority Report, che è un film che è ispirato a un romanzo di fantascienza di Philip K. Dick, che raccontava esattamente questo, un mondo futuro in cui grazie a delle tecnologie la polizia è in grado di prevenire, di leggere nella mente dei potenziali criminali il reato prima che venga commesso e quindi li arrestano senza che abbiano commesso alcuna colpa, che è, nella nostra Alice è diventata la metafora della detenzione psichiatrica, del luogo in cui si puniscono persone che non hanno commesso alcuna colpa, è la pena senza il reato. Quindi se uno legge Alice con questo sguardo qui può arrivare dovunque, proprio perché gli spunti ci sono. È chiaro che c'è sempre una percentuale di arbitrarietà, però la ricchezza culturale in senso ampio di Carroll era tale che le trovi queste intuizioni già in lui. Alice, insomma, Matrix è Alice. Ma sentire Lella Costa che parla di Alice, io ci starei veramente per ore, perché si vede che è un libro... Ma dai un dolore al nostro giovane amico, se già si è trascinato fin qui per dirci no, non fatemi questo. No, veramente starei molto più tempo ad ascoltarla, perché ci sai dare degli stimoli, dei punti di vista, delle osservazioni. Cioè, io stasera sicuramente andrò a casa, mi riaprirò Alice nel Paese delle Meraviglie, perché mi sono venute tante idee con le quali rileggere, riaffrontare questo libro. Fra le frasi così che mi sono segnata, perché su Alice tutti gli intellettuali hanno detto qualcosa, tutti, perché non si può non dire qualcosa su Alice, che è stata comunque una pietra miliare della letteratura dall'Ottocento in poi. Allora me ne sono segnate due che mi sono piaciute particolarmente, una di un contemporaneo uomo, in questo caso Stefano Bartezzaghi, che dice: Alice ci racconta che bisogna essere sempre pronti per le trasformazioni. Una grandissima verità. E poi ne ho scelta una di una donna del passato, Virginia Woolf, anche lei ha parlato di Alice, che dice: è per questa ragione che i due libri di Alice non sono libri per bambini, sono i soli libri in cui noi diventiamo bambini. Bravo, molto bene. Molto bene. Queste molto, sono le due cose bene. Che mi hanno colpito di più. Tu quanto ti sei sentita bambina e quanto invece, voglio dire, i non detti, le allegorie, le metafore che ci sono in Alice sono molto da adulti. Come si mantiene questo equilibrio fra risentirsi bambini nel leggere Alice e invece il capire tanto del non detto? No, io non credo che, almeno io non mi sono affatto sentita bambina leggendo Alice, proprio perché Alice non è un libro per i bambini, ma non è neanche un libro sull'infanzia. Semmai Alice è un romanzo di formazione, è un romanzo d'avventura, ma quello che mi ha permesso di fare Alice è stato proprio toccare due temi che nel momento in cui ci abbiamo lavorato mi stanno tuttora molto a cuore, ma in quel momento sentivo proprio l'urgenza di parlare. Uno era il tempo, perché Alice ti permette di fare questo ragionamento sul tempo, e l'altro erano proprio i bambini, perché... quasi 10 anni fa ormai, esattamente come oggi, mi sembra che intorno all'infanzia si consumino una serie di, intanto di crimini fisici, ma anche una serie di reati, come posso dire, culturali, nel senso che si parla di bambini e di infanzia con un'ipocrisia e una distanza infiniti da quello che poi è la realtà vera, e per cui passando attraverso la perfida filastrocca della duchessa che ninna il bambino, trattalo male il tuo bambino e se sternuta, trattalo male il tuo bambino e se sternuta, lo fa soltanto il birichino perché di dar fastidio gode, assai poco materno, appunto. E lì ci ho, insomma, dopo averci pensato molto con Giorgio Gaglione, con Stefano Bollani che ha costruito poi la musica per questa cosa, abbiamo inserito una cosa molto forte, che era una ballata che Stefano ha musicato prendendo una delle musiche di Alice di Walt Disney. Alice guidaci, le meraviglie. Lui l'ha musicata molto romantica e il testo era fatto con i dati del rapporto UNICEF di quell'anno sull'infanzia nel mondo. Era veramente il mondo alla rovescia, era veramente il paese dell'assurdo. E la cosa che mi piaceva è che quei dati colpivano di più ancora che per l'orrore. Nel mondo ci sono 2 miliardi di bambini, 1 miliardo vive in povertà e fa 1 su 2, 600 milioni non vivono in un alloggio adeguato e fa 1 su 3, ogni anno, ve lo risparmio. Colpivano prima ancora che per il dolore, per l'indignazione, per l'assurdo. Non ci puoi credere a quei numeri. Esattamente come non ci puoi credere che, appunto, mangiando un pezzo di fungo diventi alta, poi piccola, non ci puoi credere. Però, così. Nel tempo che tu hai parlato dei bambini, è triste dirlo, ma nel mondo saranno morti 100 bambini. Credo che l'ultimo ogni dato fosse ogni 5-6 secondi, ogni 6 secondi nel mondo un bambino muore di fame, certo, era il rapporto era naturali, poi esattamente. Quindi entriamo un po' nelle parole della letteratura, perché ne abbiamo bisogno in questo momento. Buongiorno, sono venuto a riprendere il mio ombrello, cioè a vedere come sta oggi suo padre, disse il signor Brooke. Mamma sarà felice di vederla. Si sieda, la prego. Andrò a chiamarla, no, non se ne vada. Ha forse paura di me, Margaret? Ed il signor Brooke aveva una tale espressione di dolore sul volto che Meg pensò di aver commesso qualche grosso errore. Non volendo però mostrarsi imbarazzata e confusa, gli tese la mano con un gesto di confidenza e disse con gratitudine: come posso aver paura di lei? Dopo tutto quello che ha fatto per papà, l'unico mio desiderio è poterle dimostrare tutta la mia riconoscenza. Posso dirle come me la può dimostrare? No, la prego, mi faccia il piacere di non dirmelo. Preferisco non saperlo. Non voglio dirle nulla che le dispiaccia. Vorrei solamente sapere se lei mi vuole un po' di bene, Meg. Io gliene voglio così tanto, aggiunse Brooke teneramente. Non lo so, rispose con voce tanto flebile che John dovette chinarsi per udire quelle poche parole. E non potrebbe cercare di saperlo? Mi sta tanto a cuore sapere se posso mettermi all'opera per un'impresa che potrà darmi ricompensa certa. Sono troppo giovane e aspetterò. Ma intanto potrebbe imparare a volermi bene. È forse una lezione troppo difficile? No, no. Se volessi impararla, no. E allora la prego, la impari, Meg. Sa che a me piace molto l'insegnamento e questo è certamente più facile del tedesco. Il tono della voce era di preghiera. Ma guardandolo di sottecchi, Meg si accorse che il suo viso aveva l'espressione soddisfatta di un uomo certo del suo successo. E ciò la irritò un poco. E infastidita, non sapendo cos'altro fare, ella seguì il capriccio del momento e ritirando le mani disse con insolenza: non voglio imparare un bel niente, vada via e non mi tormenti. E il povero signor Brooke restò piantato là, con l'espressione di chi vede crollare d'improvviso tutto il suo bel castello in aria. Non saprei dirvi cosa sarebbe accaduto se proprio in quel momento la zia March Non fosse entrata nella stanza zoppicando, Meg fece un balzo come se avesse visto un fantasma mentre il signor Brooke spariva velocemente nello studio. Cosa è successo? È un amico di mio padre. Che sorpresa vederla! Una sorpresa? È più che evidente. Qui c'è sotto qualcosa e voglio sapere cosa. Stavamo parlando. Il signor Brooke è venuto a riprendersi il suo ombrello. Brooke? Ah, capisco. Di un po', hai per caso intenzione di sposare quest'uomo? Perché se lo sposi da me non avrai il becco d'un quattrino. La zia March conosceva alla perfezione l'arte di far ribellare anche i caratteri più dolci e buoni e probabilmente ci prendeva anche gusto. Zia March, sposerò chi mi pare. E lei potrà lasciare tutti i suoi quattrini a chi le fa più piacere. Che arie sono queste? Signorina, è questo il modo di seguire i miei consigli? Se ne pentirà, signorina, un giorno, quando avrà provato che cosa sia due cuori e una capanna. Potrei trovare di peggio nelle case ricche e grandi. Questo Brooke è povero. Non ha parenti ricchi, vero? No, ma... ha tanti amici. Non si vive di sole amicizie, mia cara. Mettili alla prova e vedrai quanti amici restano fedeli. E non ha neppure una qualche posizione. Ti credevo più sensata, Meg. Anche se cercassi tutta la vita, non potrei trovare di meglio. John è buono, onesto, ha talento, voglia di lavorare. Si farà una gran buona posizione. Io sono orgogliosa di essere amata da lui. Anche se non ho capito come posso accontentarsi di una ragazza così... povera, giovane, stupida come me. Sai come? Egli sa che hai dei parenti ricchi. Ecco il segreto. Ecco perché ti vuole tanto bene. Zia March, chi le dà il diritto anche solo di pensare a una cosa simile? John è superiore a certe meschinità e se lei continua a parlare in questo modo non starò più ad ascoltarla. Non temo la povertà. Sono stata povera finora e sono vissuta felice. E sono certa che vivrò felice con lui perché egli mi ama e io... Bene, non aspettarti nulla da me quando ti sposi. Ti lascio agli amici del signor Brooke e di te. Me ne lavo le mani, per sempre. E la zia March se ne andò in gran furia, brontolando arrabbiata. Con la partenza della vecchia anche tutto il coraggio di Meg parve andarsene. Rimasta sola... ella non sapeva più cosa fare, se piangere, ridere. Prima ancora che potesse decidere, però, si trovò dinanzi il signor Brooke, che disse tutto d'un fiato. Non ho potuto fare a meno di udire ogni parola, Meg, grazie di avermi difeso e ringrazi la zia March di avermi dato la gioia di sentire che, dopo tutto, un po' di bene, Meg, lei me ne vuole. Non sapevo quanto gliene volessi fino a quando non ha cominciato a calunniarla, rispose Meg. E posso, dunque... rimanere ed essere felice. E qui Meg si disonorò per sempre agli occhi di Joe, mormorando sommessamente «Sì, John», e nascondendo il volto nel soprabito del signor Brooke. Il padre e la madre sedevano l'uno accanto all'altra, rivivendo nel romanzo della loro figlia il piccolo romanzo che essi stessi avevano vissuto 20 anni prima. Amy stava facendo un disegno dei fidanzati che sedevano in disparte, in un mondo felice tutto loro, che dava ai loro volti una luce che la giovane artista non riusciva del tutto a cogliere. Beth, sdraiata sul sofà, parlava tranquillamente col suo vecchio amico, che teneva la piccola mano stretta fra le sue, come se quella manina potesse trasmettergli tutte le buone qualità che ammirava in lei. Joe sedeva sulla sua poltrona favorita, con un'espressione seria e dolce che al meglio si addiceva alla sua fisionomia, e Lori, appoggiato alla spalliera, col mento all'altezza della testa ricciuta, sorrideva con il più amichevole dei suoi sorrisi e la salutava, i loro volti riflessi attraverso lo specchio. «Svegliati, Alice, cara», le disse la sorella. «Che bella dormita hai fatto, eh?» «Ho fatto fatto un sogno tanto curioso, disse Alice e raccontò alla sorella meglio che potesse tutte le strane avventure che aveva vissuto fino ad allora. E quando finì, sua sorella la baciò e le disse: è stato davvero un sogno curioso, mia cara, ma ora di corsa a prendere il tè, è già tardi. E così Alice si alzò e corse via, pensando mentre correva al sogno straordinario che aveva fatto. Sua sorella rimase seduta, col capo appoggiato alla mano, incantata ad ammirare il sole tramontare. E riflettendo sulla piccola Alice e sulle sue avventure meravigliose, cadde in una specie di torpore e sognò qualcosa di simile a questo. Prima di tutto sognò la piccola Alice con le sue manine delicate e posate sulle sue ginocchia, con i suoi grandi occhi luminosi fissi in lei. Poteva sentire davvero il suono della sua voce e vedere quello strano agitarsi della sua testolina per rigettare indietro i capelli che volevano ad ogni costo nasconderle il viso. E mentre era tutta presa ad ascoltare, o sembrava che così fosse, tutto il luogo che la circondava si animò, popolandosi di quelle creature vedute in sogno dalla sua sorellina. L'erba rigogliosa frusciava sotto di lei mentre il coniglio bianco scappava via. Poteva sentire il tintinnio delle tazze mentre la lepre Marzolina e i suoi amici partecipavano alla loro perenne merenda. Udiva distintamente gli strilli della regina che mandava i suoi convitati al patibolo. Ancora una volta il bimbo porcellino starnutì sulle ginocchia della duchessa mentre in lontananza la povera falsa testuggine singhiozzava e rimase a sedere con gli occhi chiusi a metà e quasi pensò di essere davvero nel paese delle meraviglie, benché sapesse che aprendo gli occhi tutto sarebbe diventato la desolante realtà. Avrebbe sentito l'erba frusciare al soffio del vento. Il tintinnio delle tazze si sarebbe mutato in quello dei campanelli delle pecore e gli strilli della regina in quelli del pastore e gli starnuti del bimbo e tutti gli altri curiosi suoni sarebbero diventati, e lei ne era consapevole, il confuso rumore di una fattoria e il mugito lontano delle mandrie avrebbe rimpiazzato i profondi singhiozzi della falsa testuggine. Alla fine volle immaginare la sua sorellina già cresciuta e diventata donna. Facciamo finta che riesca a conservare anche da adulta il cuore affettuoso e semplice dell'infanzia. Facciamo finta che raccolga attorno a sé altre bambine e riesca a far loro brillare gli occhi, beandole con storielle curiose e strane, magari anche con il sogno del paese delle meraviglie. E con quanta comprensiva tenerezza potrebbe ella stessa partecipare alle loro innocenti paure. E con quanta gioia alle loro gioie, tornando con la mente agli spensierati giorni della fanciullezza e alle felici giornate d'estate. Grazie a Stella Piccioni e Clio Cipolletta per le letture, la regia di Marco Rampoldi. A questo punto un'ultimissima battuta, Lella Costa. Joe di Piccole Donne e Alice possono ancora essere degli esempi, delle eroine degli anni 2000. Ma forse non abbiamo più bisogno di esempi e di eroine, abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni, di simboli, di metafore e di sorrisi. Abbiamo bisogno della forza, dell'ironia di entrambe, perché Joe è un personaggio pieno di ironia e Joe governava il mondo dell'infanzia delle sue sorelle facendo far loro teatro, che insomma non è poco, e mettendo in scena, e Alice in qualche modo così, è un lungo palcoscenico che si trova ad attraversare. Credo che, se vogliamo concludere con la mia veloce filastrocca, potremmo imparare da loro, soprattutto da Alice, ma non soltanto, perché anche Joe ha quei problemi lì, come sia difficile trovare il nostro passo nel mondo, proprio perché ci sentiamo continuamente, cioè la nostra autostima, come direbbe Woody Allen, è tendenzialmente sempre un gradino sotto Kafka. E forse sorriderci sopra insieme è un buon modo. Quello che la lettura di Alice e il suo giocare con le dimensioni mi aveva fatto venire in mente allora era questa filastrocca qua, che ci avrebbe la musica di Stefano Bollani, ma fate finta. Allora ti presento bene. Ti presenti? Allora mi Gabriella. No, Gabriella, detta no. Lella Costa Soubrette, yes, in Alice inadeguata. No, beh, dopo. Ho troppo alta, ho troppo bassa, le dici magra, si sente grassa, sono tutte bionde, lei è corvina, vanno le brune, diventa albina, troppo educata, piacciono volgari, troppo scosciata per le comari, sei troppo colta, preparata, intelligente, qualificata, il maschio è fragile, non lo umiliare, se sei più brava non ostentare, sei solo bella ma non sai far niente, guarda che oggi l'uomo è esigente, l'aspetto fisico più non gli basta, cita alberoni e butta la pasta, troppi labbroni non vanno più, troppo col seno, buttalo giù, sbianca la pelle, che sia di luna. Se non ti abbronzi non sei nessuna. L'estate prossima con il cotone tornano di moda i fianchi a pallone, ma per l'inverno la moda detta ci vogliono forme da scolaretta, piedi piccini, occhi cangianti, seni minuscoli, anzi giganti. Alice assaggia, pilucca, tracanna, prime due metri, poi è una spanna. Alice pensa, poi si arrabatta, niente da fare, è sempre inadatta. Alice morde, rosicchia, divora, ma non si arrende, ci prova ancora. Alice piange, trangugia, digiuna, è tutte noi, è se stessa, è nessuna. Nella Costa, Alessandra Tedesco, grazie. Arrivederci. Bravo. È stato un piacere. A voi.